I briganti si difendono per 5 secondi, segnalati dal suono X. Poi sferzano 3 attacchi consecutivi identificati dal suono issico. Al suono X colpisci toccando lo schermo il più possibile. Al suono IT difenditi tenendo il dito premuto sullo schermo.